Questo pomeriggio alle 18.30 nel parco della Montagnola verrà presentato Fa un po' caldo, breve storia del riscaldamento globale, un libro edito da Fabbri Editori e scritto da Sergio Rossi, che è un fisico e un divulgatore, e Federico Grazzini, che è un fisico meteorologo e caporevisore presso ARPA. E noi siamo al telefono con Federico, che saluto, buongiorno. Buongiorno a voi. Voi avete scritto questo libro che ho avuto modo, insomma, anche un po' di vedere. Potrebbe essere considerato il sussidiario della scuola, diciamo, su questo tema importante come il surriscaldamento globale? Ma no, adesso non lo so. Noi sicuramente nel scrivere questo libro ci siamo posti come target, diciamo, quello dei ragazzi, e anche quindi il linguaggio è un linguaggio adatto ai ragazzi, abbiamo pensato appunto a loro come dire target principale del libro. Abbiamo cercato di fare un po' chiarezza su quali riteniamo siano gli aspetti forse meno conosciuti e dare allo stesso tempo anche una visione generale sui tanti aspetti che il riscaldamento globale interessa. Quindi non lo so, insomma, io direi che il lavoro è riuscito abbastanza e poi starà ai lettori chiaramente giudicare se il libro piacerà o no. Anche delle parti fresche che rispondono un po' anche alle metodologie comunicative di oggi. Ad esempio, voi ogni tanto sfatate alcune fake news che ci sono sul tema del surriscaldamento. Sì, infatti quello è uno dei problemi che ci sono nella comunicazione di questo importante tema. È vero, a giudicare da quello che viene scritto sui giornali, spesso mi rendo conto che le persone sono un po' confuse perché si possono sentire affermazioni anche contrastanti. C'è chi dice, ah, ma cosa vuoi che sia, qualche grado in più, oppure il riscaldamento globale non esiste, oppure il clima è sempre cambiato. Ecco, noi abbiamo cercato di rispondere a tutte, facendo appunto un po' di chiarezza, smontando pezzo per pezzo queste affermazioni che chiaramente non fanno altro che sminuire, diciamo, l'importanza di questo problema, che invece deve essere affrontato in maniera rapida, in maniera contemporanea da diversi paesi, con diversi tipi di azione. Insomma, è un problema grosso. Spesso appunto viene messa in discussione, come già accennavi, anche l'azione antropica nel problema, e voi costruite un po' la storia di come il clima si è scaldato, diciamo così, dalla seconda rivoluzione industriale ad oggi. Sì, e ancora prima di, diciamo, scendere nel dettaglio dell'impatto dell'uomo sul clima, è interessante anche far capire come in realtà, al di là dell'impatto dell'uomo, tutte le forme viventi hanno un impatto sul clima e sulla modificazione della chimica dell'atmosfera. Quindi il fatto di dire, ah, ma l'uomo come può avere un impatto sul clima? Beh, ce l'hanno tutti gli esseri viventi, solo che noi adesso con la nostra tecnologia abbiamo un'impronta molto molto più forte di tutte le altre specie, insomma. Quindi riusciamo a, chiaramente bruciando tutte le riserve di combustibile fossile che si sono accumulate in milioni di anni nel sottosuolo, noi rimettiamo dentro in atmosfera tutto quel carbonio che era stato assorbito in milioni di anni, e per questo qui abbiamo un impatto molto molto forte sull'assetto del nostro clima. Voi dedicate un capitolo anche a Greta Thunberg. Secondo te perché ha fatto così presa sui suoi coetanei, sui giovani? La sua capacità anche, lei innanzitutto è molto chiara, molto determinata. Io ho ascoltato tante volte i suoi messaggi, molto anche, diciamo, cerca di raggiungere anche un po' l'aspetto emotivo forse della questione, e in questo secondo me ha avuto molto molto successo. Cioè, ritengo il suo messaggio originale, chiaramente non, anche lì cerchiamo di sfatare un po' la cosa. Secondo alcuni dicono che lei la sua famiglia avrebbe degli interessi in fare questo, ma insomma mi sembra che gli interessi stiano da tutt'altra parte, anzi dalla parte opposta, quella che noi chiamiamo il lato oscuro della forza, cioè tutte quelle forze economiche potentissime che chiaramente cercano di dare poco peso a questo problema, perché altrimenti i loro interessi ne sarebbero influenzati, no? Perché mi riferisco esplicitamente a tutta l'industria del petrolio, dei combustibili fossili. Questi devono essere ridotti, ma chi chiaramente ha fondato un impero su questo immagino che non sia proprio d'accordo nel procedere in questa direzione. Quindi il messaggio di Greta è perché lei ha riportato la discussione e l'attenzione su quali sono gli effetti dei nostri comportamenti nel mondo reale, che noi appunto dobbiamo cercare di agire più velocemente possibile per porvi rimedio. Nel libro voi indicate anche buone pratiche che ciascuno di noi può compiere ogni giorno per salvaguardare il pianeta, e su questo tema c'è anche un dibattito su quanto, come dire, l'azione individuale possa essere risolutiva o quanto serva invece anche un impegno della politica, di chi comanda, per anche agevolare poi comportamenti virtuosi. Tu cosa ne pensi? Sì, io penso che ovviamente servono entrambe le cose, no? L'azione individuale conta, ma fino a un certo punto. Io posso mettere tutta la buona volontà nel cercare di consumare meno, riciclare. Io per esempio personalmente ho rinunciato anche all'auto, a una famiglia, siamo in quattro, quindi abbiamo così anche consapevolmente rinunciato all'auto da ormai 6 anni, ci spostiamo con mezzi pubblici, con la bicicletta che è il mezzo principale, con il car sharing. Però la scelta individuale arriva fino a un certo punto, nel senso che poi il mercato un po' ti guida le nostre scelte, quindi io posso resistere fino a un po', posso cercare appunto di, però poi diventa molto molto difficile se in queste scelte, diciamo, virtuose non sono agevolato. E quindi è lì che la politica ha un ruolo importantissimo, un ruolo fondamentale, e quindi anche, diciamo, l'azione dall'alto è importante, io ritengo sia più importante della scelta individuale. Per questo credo che adesso per esempio l'Unione Europea si sta muovendo molto in questa direzione, gli Stati spero che seguano questi indirizzi, e perché ci deve essere assolutamente un'azione anche politica. Allora io ricordo l'appuntamento questo pomeriggio alle 18:30 presso il Parco della Montagnola a Bologna, la presentazione del libro Fa un po' caldo, breve storia del riscaldamento globale, di Sergio Rossi e Federico Grazzini. Federico, grazie mille. Grazie a voi, a presto. A presto.